Signori e signori, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, benvenuti a MDB Summer Radio. MDB Summer Radio. Bene, dopo questa bellissima sigletta che spero vi sia piaciuta tanto, vi ricordo che si chiama Scent of the Obscene dei Sith, e l'abbiamo fatta sentire tutta intera nel primo episodio. Partiamo con il secondo fantastigliardesimo episodio di Morti di Bestemmie Radio d'Estate, MDB Summer Radio, dove Summer è scritto con l'H finale, perché bisogna saperlo riconoscere. Le vere donne fiche sono le Samante, con la H finale. Le Deborah con le H in mezzo, e per cui anche Summer Radio c'è la H un po' così ad cazzum in mezzo. Allora, la puntata di oggi doveva essere ben diversa e doveva essere molto più tranquilla, molto più delicata, ma alla fine ho pensato, visto che siamo ancora in fase di rodaggio, perché non partire subito con qualcosa di bello energico e atletico, direi, visto che siamo anche in tema olimpionico. Per cui la seconda puntata che avevo in mente slitta la prossima volta, e anche perché la scaletta è già pronta per quella puntata, e oggi invece ci dedichiamo a qualcosa di più allegrotto, di più grintoso. Ebbene sì, questa puntata si chiama Il ritorno di El Grinta, oppure soltanto il Grinta, dipende da come mi gireranno le palle quando metterò giù questo episodio. Perché? Ma perché mi sono accorto che la musica recentemente è sempre più moscia. Siamo in epoca di Coldplay devastante. Sentite i Coldplay, quelli che cantano. Sono stanco, non mi rompere il cazzo. Già che canto ti faccio sto piacere, mi devi rompere pure il cazzo. È un po' anche l'approccio delle pubblicità dei profumi, no? Queste super donne strafighissime, sempre scazzate. No, ma che palle, sto avendo un orgasmo, ma non mi rompete i coglioni. Non mi rompete i coglioni, no. Invece in questo caso, questa puntata è una puntata di gente che rompe veramente i coglioni, perché porca puttana vogliamo qualcosa di grintoso. Per cui ho raccolto un sacco di musica grintosa che a me piace tantissimo, che di solito utilizzo quando vado in bicicletta per andare più veloce. Effettivamente il doping acustico funziona. Effettivamente sì, è la musica considerata dopante. Per cui quando i giovani che stanno per entrare in piscina si ascoltano le loro belle musichette con le cuffie Beats, sempre robe brutte, alla fin fine, essenzialmente si stanno ascoltando questa musica qua. Sono assolutamente sicuro che tutte le musiche che metteremo oggi sono le musiche che la Federica Pellegrini, proprio la Federica, tutto attaccato, si ascolta prima di tuffarsi e fare 200 muscle. Salam Madonna. Va bene, sì, non bisognerebbe dire queste cose poco educate, però mi sono dilungato sin troppo. Allora, cominciamo con la prima canzone. La prima canzone è un pezzo di James Labrie, che forse voi conoscete come il secondo cantante dei Dream Theater. Ebbene sì, il secondo, perché il primo disco dei Dream Theater, When Dream and They Unite, aveva un altro cantante, che poi hanno cacciato bellamente perché fondamentalmente tirava fuori un heavy metal molto, molto all'acqua di rose, un erede dei Rainbow, mentre loro, i Dream Theater, nella fattispecie John Petrucci, John Myung e come si chiama, Mike Portnoy, volevano qualcosa di un pochettino più elaborato, un pochettino più figo, per cui hanno tirato dentro questo ragazzo canadese che canta con loro. Però ha una bella voce, anche se non è la stessa voce che aveva 20 anni fa. Insomma, recentemente ha tirato su questo disco che si chiama I Will Not Break, da cui prendiamo proprio il singolo I Will Not Break, che ha il grande vantaggio di essere stato molto scritto e molto suonato, cioè scritto, composto e suonato da Marco Sfogli, ragazzo di Napoli del 1980, che suona la chitarra. Vabbè, insomma, ve lo faccio sentire, signore e signori, James Labrie con I Will Not Break. Qui sentite già questo bel riflettone di chitarra che fa capire che non stiamo parlando dei Dream Theater, ma di una cosa leggermente diversa, un pochettino più semplice dal punto di vista compositivo, ma un pochettino bello più tirato. Questo è proprio un buon power metal, diciamoci. Vai James. Yeah. per caso alla parte di chitarra, alla parte di batteria, come sono belle cattivelle. Con questa bella coda in cui ci sono le due voci che si sovrappongono sempre del simpatico James, Kevin James Labrie, questa canzone che finisce, come sentite, è una canzone relativamente tranquilla. Se non fosse stata di James Labrie probabilmente non l'avrebbe conosciuta nessuno, però noi chi se ne frega ce la beghiamo lo stessamente, perché di sì, perché porca miseria, comunque è una bella canzone ed ha una bella carica. Ve lo consiglio bellamente quando andate a fare attività fisica tipo scopare, ascoltatevi sta roba. Devo dire che secondo me durate di meno, perché ragazzi andate più veloce. Plush, il famosissimo plush, avete presente? Avete presente? Stavo per soffocare con il mio stesso respiro. Bene, dopo questa canzoncina che vabbè è tranquilla, ma serviva più che altro come una sorta di introduzione, partiamo invece con un pezzo un po' più cattivello, uno di quelli che secondo la mia ragazza ruttano dall'inizio alla fine. In realtà, come ben sapete, nell'heavy metal, in tutto quello che è stadi sopra il pop di dei Luna Pop tanto per parlare di un gruppo simpaticamente moscio, e tutti sono, cioè, tutto sembra heavy metal, però in realtà ci sono tante belle sfumature. Questo è un gruppo che è australiano, che si chiamano Parkway Drive e fanno metalcore. Allora, quando qualcuno vi chiede che cos'è metalcore, è perché fondamentalmente è rimasto dopo gli anni 2000, ha deciso basta, mi sono rotto il cazzo, torno ad ascoltare la musica che mi piaceva, i Metallica, i Megadeth, gli Anthrax, gli Aerosmith. No, se ascolta gli Aerosmith siete autorizzati a sparargli un colpo in testa. Bene, il metalcore diciamo che è una sorta di via di mezzo tra il new metal e il gent. E ovviamente non è nessuna delle due cose, perché ci sono sempre, probabilmente ci sono anche molte sfumature tra il new metal e il metalcore, e tra il metalcore e il gent. Però tendenzialmente diciamo che c'è abbandona dal new metal il pulito per concentrarci essenzialmente sul distorto della voce, però non diventa inascoltabile e ipertecnico e complicato come il gent. Probabilmente faremo una puntata sul gent che non mi ascolterà nessuno, perché in effetti trovo anch'io che a volte siano quasi inascoltabili gruppi come Meshuggah. Però, dato che siamo qui, vi faccio sentire i Parkway Drive con Dark Days, che secondo me è un pezzo della super madonna, tanto per cambiare. E, allora, per quelli che vogliono ascoltare musica solo tranquilla, pulita e delicata, magari si possono anche saltare la puntata, o perlomeno saltare questa canzone. Ma noi partiamo con questo pezzo, con questa bella batteria. In questa puntata le parti di batteria saranno sempre molto belle, secondo me. Questo riffettone qui che rimarrà quasi sempre costante in tutta la canzone. Adesso parte la batteria col raddoppio di cassa. I miei amici batteristi mi bestemmieranno contro probabilmente. Sentite che bel girone, bello carico. Adesso pronti per la parte di voce. Farvi notare che Winston McCall, il cantante, fa tutte le voci, sia quelle più basse che quelle più alte. cantava questo genere di musica, noi gli chiedevamo come fa a mantenere la voce viva dopo un concerto. Dice, io faccio gargarismi con crema al whisky. Non ho mai provato, però sarei curioso. Ragazzi, se siete voi all'ascolto, avete voglia di provare a diventare cantante metalcore, vi consiglio caldamente di fare questa prova. Magari di aggiungere la crema al whisky anche un pizzico di acido muriato, così. Poi non mandate giù, ovviamente. Come sentite, non c'è mai una vera e propria apertura, non c'è un ritornello codificato in questa canzone, però devo dire che se siete lì che state cercando di sollevare dei pesi, con questa roba qua li sollevate di più. Non siete necessariamente obbligati ad andare in palestra, che ne so, andate alla Selunga, comprate tante di quelle borse gialle e sono riempite di bottiglie di birra e non riuscite a sollevarle, ascoltate sta canzone e sì, porco due, li alzo di brutto, spaccatemi il culo, sono qua, sono pronto, Sonica. Se qualcuno sa da dove viene fuori Assunneca, gli offro una cena in un ristorante a pagamento. Bene, finito questo bellissimo pezzo dei Parkway Drive, bellissimo non lo so, in realtà a me è piaciuto un tanto, però magari a voi vi ha anche rotto un po' le palle. Devo ammettere che magari dovete ascoltarvelo più di una volta, ed è un consiglio così spassionato che vi do, un consiglio sconsigliato, come dire, ma se vi piace questa trasmissione, nella fattispecie MDB Summer Radio, siete moralmente e mortalmente obbligati a fare un po' di proseliti, nel senso andare in giro per il mondo e dire, oh, ma tu ascolti il podcast MDB Summer Radio? Sì, allora, oppure no, sì, allora ascoltatelo, scaricatelo, scaricatelo molte volte, alzateci le statistiche, perché quando ci si alzano le statistiche come quando ci si alza qualcos'altro, noi siamo felici. E devo dire che in realtà mi avete dato un grandissimo feedback per quella prima puntata, perché non ho mai ricevuto così tanti complimenti, così tanti grazie da parte degli ascoltatori, neanche quando facevo le cose più tecniche di video Diggers, il che mi ha fatto pensare che ho sbagliato tutto nella vita. Ma ogni volta che vedo un idraulico, un elettricista, un meccanico, dico che ho sbagliato tutto nella vita, avrei dovuto fare un lavoro un pochettino meno cerebrale, meno da sega mentale e da più soldi, perché fondamentalmente i soldi sono la merce di scambio di baratto da Barter Town, con cui uno compra le cose che gli piacciono, con cui uno compra i servizi che gli piacciono, con cui uno si compra la propria felicità. Ebbene sì, i soldi fanno la felicità. Oddio, condizione necessaria ma non sufficiente. In realtà potrei dire un sacco di cose e un sacco di persone potrebbero dirmi no, ma non capisci niente, la vita è altro, la vita è altro. Vabbè, chi se ne frega. Adesso passiamo invece a una fase un pochettino più di raccoglimento, anche se la canzone che sta per seguire secondo me è una delle canzoni più epiche mai scritte negli anni 90, forse anche degli anni 80. È un gruppo italiano. Come al solito partiamo a fare partiamo adesso, la posso dire anche meglio. Iniziamo con la rubrica che parla di... No, non ce la posso fare, ragazzi. Iniziamo con la rubrica della musica demenziale, della musica parodistica. La volta scorsa vi ho fatto sentire i Nine World of Steel, che facevano una bella canzoncina, ma non era abbastanza grintosa. Oggi prendiamo una canzone un po' più anziana, avrà almeno 10 anni di più, ma molto grintosa. E le poche volte che li ho ascoltati dal vivo, devo dire che ero pronto a prendere e a pogare fino a farmi del male. Poi in realtà mi facevo del male subito, perché ero relativamente mingherlino. per cui il pogo per me è sempre stata una cosa che era bello vedere, far vedere agli altri, era bello vedere gli schizzi di sangue, basta che non fosse il mio di sangue. Insomma, quelli che arrivano adesso si chiamano Utez, ovvero sia Ultra Tanfo e le Zaffate, definiti come i paladini del brown power e scopritore del rock misterioso. In realtà fondamentalmente fanno musica demenziale, però fanno musica demenziale heavy metal. Questo disco credo che arrivi dagli anni 80, sì, forse i primi anni 90, ed è una canzone che secondo me è emblematica, è una canzone che riguarda un po' tutti noi, perché c'è una radio, avete presente quando accendete la radio, che comunque qualunque frequenza vi mettiate dentro arriva sempre lei, perché lo Spirito Santo viene trasmesso attraverso le onde medie e a modulazione di frequenza, che già che questa è un'altra bellissima citazione. E questa radio è Radio Maria, Radio Maria, proprio questo pezzo degli Utez. Sentite che becco, questo bellissimo accordo proprio di power metal di bassa lega degli anni, fine anni 80. Da da da da da da. Parte di batteria molto semplice, questi suoni sono molto semplici, una canzone che avrà 20 anni secondo me, anzi 25, mi ricordo che l'ascoltavo che ero alle superiori. Ma lascia stare i santi, un vecchio detto, così ce ne sono tanti, solita storia di superstizione. Chi se ne frega, noi facciamo una canzone. Voi direte, attento che peccato, ma io vi sfido perché son vaccinato. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo all'omelia. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo in posizione. Santa devozione, ma rappano il Vangelo in continuazione. C'è un solo riff di chitarra così che si tira su una canzone intera ed è bello, proprio è proprio da massacro, da sangue, da spluzzi di merda. Perché secondo la teoria del sangue del tapiro c'è gente che quando muore invece di sanguinare sanguina merda. Pizzi lo sa, Michela pure. Pronti? Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo all'omelia. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo è così sia. Vai di solo! Dei tempi quando bastavano tre accordi, tre veramente per fare una canzone di metal, va che roba bella. E adesso qui beccate di tabelle. E adesso fratelli carissimi, preghiamo tutti insieme. San Cirillo, ora pro nobis. San Camillo, ora pro nobis. San Siro, ora pro nobis. San Docan, ora pro nobis. San Buca, ora pro nobis. Sant'Ana, ora pro nobis. Sanguinella, ora pro nobis. Sant'Onore, ora pro nobis. O santi nomi, ora pro nobis. O Sant'Antoni, bel Purcell. Radio, Radio Maria, ti sbatte su in classifica il salmo all'omelia. Io quando sono nella tua opera sento questa canzone, alzo tutto, tiro giù i finestrini e comincio a... non posso dire che posso bestemmiare perché non bestemmio, però vorrei tanto, ma la bestemmia di gioia, avete presente? Non quando uno è incazzato, quando uno dice che bella cosa, porco due a tutta voi, anche a te fratello, porco due, ma sì, porco due anche a te, bellissimo. Che canzonaccia bellissima, ditemi che non è grandiosa, io vi faccio scoprire le belle cose ragazzi, altro che robe banali tipo gli Schianto Segni delle Stelle Tese, che poi verranno anche loro ovviamente, però questa è musica. Che bella roba, signore e signore. Io quasi mi bagno per queste cose epiche. Adesso cambio di rotta. In ogni puntata ci deve essere una cosa di quelle che Pizzi dice che palle. Perché di sì? Allora, fino adesso è roba grintosa, roba che mi mette allegria, no? E io che parlo ovviamente abbasso il ritmo della trasmissione, ma come voi ben sapete nelle note dell'episodio c'è il link alla playlist Spotify, così ve le potete scaricare e ascoltare bellamente quando fate attività fisica. Quello che arriva adesso è un pezzo che secondo me è una grinta della Madonna, tanto per rimanere in tema di Radio Maria, ma che non è una canzone, è un pezzo jazz del film Whiplash, la canzone si chiama appunto Whiplash, film che vi consiglio caldamente perché è un film, secondo me è il film d'azione dove non muore nessuno, più bello di sempre. È un film in cui praticamente uno dei due protagonisti ha vinto qualsiasi premio da attoriale dell'anno, perché appunto J.K. Simpson che fa l'insegnante è qualcosa di grandioso. Insomma, vi consiglio di trovarvelo, Whiplash, è la storia di un ragazzo che vuole diventare il più grande batterista di questa jazz di questa generazione, e incontra un insegnante con cui instaurerà una sorta di rapporto più o meno conflittuale che lo porterà ad affrontare i propri limiti. C'è solo una cosa che non capisco di questo film, ed è il fatto che lui, per, non voglio fare spoiler, però diciamo che a un certo punto caga poco una certa attrice che si chiama Melissa Benoist, che è la prova vivente che Dio esiste e ci vuole male, tanto per tornare a Radio Maria e alle bestemmie di prima, perché non puoi infilare nel mondo un essere così meravigliosamente perfetto e non regalarlo a tutti, ma a dedicarlo soltanto a pochi. Beh, insomma, guardatevi il film, e questo è un pezzo jazz che si chiama appunto Whiplash. Contate con me, perché bisogna sempre contare quando c'è il jazz di mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cosa è nel 7 ottavi sta roba? Boh. Sette ottavi. Contavo un po' alla cazzo prima, perché mi piace contare alla cazzo. Intermezzo, avete presente quando nei podcast c'è qualcuno che parla, vabbè adesso facciamo una canzoncina per spezzare? Questa era una canzoncina per spezzare, nonostante abbia grinta, obiettivamente non ha lo stesso livello di grinta di tutte le altre. Allora, di cosa parliamo adesso? Adesso invece facciamo un trittico, tanto per cambiare, mi piace, questa l'ho copiata da Kenobit, Fabio Bortolotti sei il mio idolo, mi bagno pensando a te. È un trittico, nel senso che c'è questo gruppo che secondo me è il mio gruppo heavy metal preferito, e non riuscivo a metterne una canzone sola loro. Avrei voluto mettere interi album e probabilmente dedicheremo una monografia proprio a loro, però diciamo che stavolta ho cercato di fare, come per la volta scorsa per Lady Gaga, un mix meno ben riuscito, di tre canzoni che secondo me sono bellissime loro, sono tutte belle cattive. Loro sono gli In Flames, e questo è un medley di The Mirror's Truth, sempre dell'album Sense of Purpose, Crawling Through Nice di Come Clarity e Trigger di Root to Remain. Tre canzoni che secondo me sono proprio di giugno, a volte anche lì la bestemmia di gioia, però con un po' più di incazzatura. Signore e signori, gli In Flames, i capolavoristi del metal nordico. Singing in Flames. Adesso invece torniamo a parlare di musica italiana. Uno potrebbe dire musica italiana, perché ci sono dei gruppi che fanno musica italiana grintosa, sì. Allora, questi li ho conosciuti quasi personalmente, si chiamano Ocean. Sono una band di Bari, sono italiani, non so se esistono ancora in giro, perché appunto questa roba qui l'ho scoperta 8 anni fa, quando dovevo lavorare a una serie di prodotti, mi sono trovato davanti un sacco di musica interessante. Il disco, che si chiama The Slow Fade of Love and Things, loro sono italiani, vi ripeto, è abbastanza un metal relativamente classico, cioè un new metal relativamente classico. Fanno delle belle cose, ma questa canzone, che si chiama Incorporeal, è il loro cavallo di battaglia. Infatti nelle varie recensioni dell'epoca mi sono andato a ribeccare le cose su internet, Incorporeal veniva definita come maestosa, mastodontica. Infatti adesso ve la faccio sentire, perché nonostante la produzione piccola, ragazzi, cioè è una produzione quasi indipendente, se lo sono fatto da loro, questa canzone ha dentro delle cose stratosferiche. Beccatevi questo pezzo di chitarra distorta e in dissonanza quasi con se stessa. Sentite come gracchia. Non c'è più fiato per fare queste cose. Questo riff è mastodontico, è stratosferico. Si sente la produzione limitata, dove il basso è staccato da tutto il resto, la chitarra è piccolina, anche la batteria è piccolina, però... Questo è un metalcore un po' meno cattivo, un po' più new metal, però bello, cioè la canzone è grandiosa. Ci parlo sopra, lo so, però voi tanto ve l'avete ascoltare su Spotify. Mi raccomando, Spotify sì, Apple Music no. Spotify sì, Apple Music no. Canzone meriterebbe una produzione molto più contemporanea, molto più moderna, perché è grandiosa. Waiting my sentence. Qui la batteria raddoppia. Bellissima sta roba. Ocean, dovunque voi siate, il mio cuore con voi. Rispetto. Le bestemmie di rispetto. Uno non può dire bestemmiare di gioia, di rabbia, anche di rispetto. Ti rispetto, porco due, mi piace una bestemmia di rispetto. E dico, porco due, grazie per il rispetto. E porco due, amo tutti insieme, mi piace. E con questa coda di chitarra andiamo bellamente in fading con un'altra canzone che inizia con un pezzo di chitarra molto molto interessante. Il chitarrista qui è Mark Tremonti, che ovviamente voi conoscete tutti. un grande chitarrista, uno che ce la sa, che però invece di fare il fighetto alla Satriani dice: io faccio anche musica bella cattivella e anche faccio un po' di soldi. Loro sono gli Alter Bridge e questo pezzo si chiama Uninvited, The Uninvited. A me loro stavano sul cazzo, non è che mi fanno impazzire, anche perché piacevano una mia ex ragazza e questo mi faceva un po' girare le palle, però effettivamente sta roba è bella, sentite che roba. C'è una produzione dietro paurosa a ste canzoni. Ecco, la cosa che mi fa incazzare degli Alter Bridge e che li rispetto per questo è il cantante, che non mi ricordo come si chiama, Miles Kennedy, che canta con questa voce meravigliosamente pulita e sembra che non faccia sforzi, come se gli uscisse facile. E mi fa girare le palle, cazzo, sei bravissimo e non sembri bravo neanche, questa è la cosa bella. Sentite il ritornello. Vedete, la costruzione di queste canzoni è molto semplice, questo riffettozzo qua di chitarra che gira, il basso sotto, poi una chitarra in dissonanza sopra e questo cantante che mi fa incazzare tanto bravo. No shame, silence, cold rage, violence for the blood. Cazzo, che roba bella. Scusatemi se ci canto sopra, ma a me sta roba mi prende veramente bene. La batteria semplicemente raddoppia il tempo solo per un ritornello, così, tanto per farvi capire, avremmo potuto farlo così ma non lo facciamo. questa canzone è la chiara dimostrazione che una grande produzione può tirar su una canzone normale. È una bella canzone, ma non, fondamentalmente non è niente di che. Ma suonata così da Dio, cantata così da Dio e prodotta così da Dio, sentite che suoni che hanno tutti gli strumenti, cioè proprio questo è un muro di bestemmie che ti viene addosso. Avete presente? Proprio qui invece parlare di Clint avremmo potuto dire il bestemmie, questa è puntata, perché avevo il muro di bestemmie che ti riempie. Ora, se voi fate i calcoli bene bene bene, scoprirete che siamo arrivati già a 7 canzoni, 7 brani, 7 gruppi, in realtà un po' di più perché ne abbiamo messe 3 degli In Flames, però raggruppati in un unico cluster, e noi ci eravamo ripromessi di farne solo 7, solo che questa puntata non ce la facevo a buttarne via, ne ho buttate via una ventina di musiche che avrei voluto ficcarvi dentro, però non ce l'ho fatta a buttar via anche l'ultima, perché è una canzone che in sé è una bella canzoncina, ma non è niente di che. E allora questo 8° brano è, torniamo a parlare di Subsonica, che sono il mio gruppo preferito italiano, direi, nonostante il fatto che sia di Subsonica, perché mi ricorda il fatto che anche in Italia, nonostante i Ligabue, nonostante i Biagi Antonacci, nonostante i Malik Ayani, c'è gente che può ancora fare del rock. Cioè gente che può appunto fare una bella roba grintosa e allegra e violenta. Per cui vi abbandono, questa puntata termina con Abitudine. Non mi chiedete il testo, non mi chiedete spiegazioni, avrei potuto anche farvelo, però la realtà è che non ho idea di che cacchio sia, per cui vi beccate Abitudine dei Subsonica, vi beccate questo bel tempino e vi consiglio di ballare i nudi sotto la luna ascoltando questo capolavoro, o quasi. Abitudine tra noi è un soggetto da evitare, tra le frasi di dolore e gioia, i desideri non ci si è concessa mai. Che uno dei testi dei Subsonica o anche non capirli, però perlomeno hanno dei tempi verbali diversi dai 3 che sono stati coniati da Max Pezzali. Con tutto il rispetto di Max Pezzali, che è una persona intelligente, però i suoi testi sono cose che neanche nelle smemorande dei ragazzi delle medie, c'è un po' più di ricchezza, di lessico, sono quei 2000 vocaboli italiani che nessuno usa più. Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro me, che siamo eco di parole intrappolate in fondo al cuore. C'è un po' più di variabilità, ragazzi, cioè un po' più di allegria, un po' più di grinta, ragazzi. Solamente incomprensione e lacrime. Come ben potete sentire, la mia escursione vocale è di 6 note, tutto uguale, per cui ho una nota soltanto che posso cantare e vi beccate le mie stonature, non me ne frega un benemerito cavolo. Se ascoltate questo capolavoro di trasmissione è perché vi piace la roba che vi metto e non quello che ci metto sopra io. Bella come definizione. Congelarsi sotto tutti i nostri desideri. Cioè, la persona dei desideri nel Subsonica è una costante. Come si dice, cioè, vorrei ma non posso, oppure vorrei e basta. Ricordate che appunto abbiamo parlato delle tante groupies dei Subsonica che gliela danno come se fosse carnevale. Sotto dico, come dico sempre, come se fosse Natale, ma in questo caso come fosse carnevale, perché a carnevale gliela si dà di più. A Natale dice, vabbè, un po' più di santità, purezza, castità, invece a carnevale, ale. Vorrei parlare sopra sta roba qua, ho parlato quando lui cantava, adesso che non canta non parlo più, ma chi se ne frega, questa è la mia trasmissione, poi dopo va bene così. Posso anche cantarci sopra, ma anche no, dai, vai. Dentro me che siamo l'eco di parole intrappolate. ma non è finita qui, eh. Una canzone che dura 5 minuti, signori, mentre le radio italiane, se qualcosa dura più di 2 minuti e mezzo. Anche questa puntata termina, come tutte le cose belle, anche questa puntata termina. Vi ringrazio ancora di avermi ascoltato fino a qui, perché siete stati belli, siete stati puri, casti e anche castaway. Insomma, bello, sono contento di aver iniziato questa trasmissione, che mi costa anche relativamente poco sbatto rispetto a tutto quello che ci ficco dentro in una puntata standard di Morti di Bestemmie. Bene, con la canzone, con la musica, la sigaretta finale, che vi ricordo è Scent of the Obscene dei Sick, di cui vi consiglio di scaricarvi l'intera discografia più o meno illegalmente, magari andate su Napster. Vi do appuntamento alla puntata successiva, che non so quando registrerò, ma ho già descritto e preparato la scaletta fino in fondo. Non sono convinto al 100%, è una puntata un po' più raccolta, un po' più delicata, mentre questa era bella, allegra, da tirarsi sulle maniche e bestemmiare di euforia. La prossima sarà invece un bestemmio di apprezzamento, tipo con il brandy e la pipa, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, un saluto a tutti voi e ancora una buona estate, e soprattutto viva MDB Summer Radio! Has been produced with